Ciao ragazzi, buonasera a tutti, ciao. Mamma mia, oh, che bellezza. Come va ragazzi, tutto bene? Grazie davvero, grazie. Allora, tra l'altro stasera stiamo anche registrando, magari, che ne so, per un disco dal vivo, quindi è un concerto registriamo, almeno se qualcuno di voi dovesse comprare un giorno il disco dal vivo si sentirà la sua voce, si riconoscerà, dirà alla sua famiglia: senti mamma, questo sono io. Grazie ragazzi. Oh, e noi cercheremo, in cambio di questo affetto, di questa accoglienza, di darvi tutta la nostra energia, tutto il mio sudore, tutto il ritmo che possiamo offrirvi, ve lo offriremo.